Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 8 settembre del 2016. Ci ascoltate su queste frequenze, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Siamo all'appuntamento con il cinema, quello di Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Cominciamo sempre un po' con qualche anticipo. Per saperne di più sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, una radio che vive dal 1977, libera da padroni e pubblicità. Per sostenerla economicamente potete contribuire con una sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001. Oppure basta consultare il sito internet della radio, sempre sull'home page, alla voce Sostieni. Io voglio cominciare la puntata di oggi con un ricordo, quello di Luchi Massa, che è stata una nostra interlocutrice abituale nel corso degli ultimi anni per due festival di cui era l'anima. Il primo, il festival lesbo Some Prefer Cake, e l'altro festival trans chiamato Divergenti. Ecco, domani tra l'altro a Bologna ci saranno i funerali e un pensiero va proprio a Luchi Massa. Cominciamo con i nostri ospiti. Un bel ritrovato ad Alberto Valtellina di Lab 80 per parlare con lui della distribuzione del documentario Asier e io, in uscita in sala oggi giovedì 8 settembre. Alberto, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Tutto bene? Tutto benissimo. Questa uscita mi ha preso un po' di sorpresa, infatti non sono ancora riuscito a vederlo il documentario, lo farò sicuramente perché l'argomento chiaramente mi interessa molto. Allora, lo raccontiamo un po' a chi ci ascolta, Alberto? Sì, Asier e io è un, lo definisce Mauro Gervasini su Film TV, lo definisce un documentario sui generis, che lo spiega. È sui generis perché intanto i personaggi sono due, uno dei due è Aitor, l'altro è l'amico Asier. Aitor è un attore, è alla sua prima prova come regista di lungometraggio, ha girato un cortometraggio in precedenza, e alla sua prima opera come documentarista sceglie di mettersi in campo, forse anche perché è attore, e racconta l'amicizia con Asier, e mettendosi in campo, e qui viene fuori sui generis perché è assolutamente, inizia facendo mancare completamente qualsiasi tipo di impronta drammatica a un argomento che apparentemente dovrebbe essere estremamente serio. Sì. Lui comincia a raccontare gli anni 80, comincia a raccontare le due strade diverse. Di fatto da un certo punto in avanti si perdono e si ritrovano quando Asier finisce in carcere in Francia. Resta in carcere per 8 anni, e la parte più interessante, più forte anche in qualche modo del film, è quando si incontrano dopo gli 8 anni di carcere di Asier. Di fatto non viene imputato niente che dopo 8 anni di carcere. Una delle preoccupazioni di Aitor è che l'amico abbia compiuto delle azioni violente, invece pare che sia rimasto in carcere per 8 anni di fatto semplicemente perché è riconosciuto all'interno dell'ETA. Quindi il carcere quasi preventivo per la semplice appartenenza all'ETA. Sì, assolutamente, e di fatto è assolutamente, di fatto il Asier si espone, Asier è una figura di riferimento e quindi evidentemente sotto, e nemmeno troppo nascosto, c'è un intento politico di annichilire il personaggio che nell'area ha una forza anche dal punto di vista del, lo vediamo arringare la folla entusiasta, e ci sono momenti particolarmente forti, cioè per esempio a Pamplona, quando viene esibita la bandiera, la bandiera basca, viene subito portata via dai poliziotti che agiscono in maniera violenta sulla folla, che invece insiste a cerca di evidenziare la bandiera, perché di fatto è proibita. La bandiera di fatto è quella che si vede, abbiamo messo sul nostro sito la fotografia, è il momento in cui loro sono su questo balcone e viene sventolata la bandiera rossa con le croci bianche. Sì, sì. E per chi ci ascolta, non tutti chiaramente lo possono sapere, però l'ETA è l'organizzazione indipendentista basca, ecco, per sottolineare insomma ciò di cui stavamo parlando. Allora Alberto, volevo chiederti anche cos'è che più vi ha convinto di questo lavoro? Ma ci ha convinto a tutti gli effetti il fatto che sia completamente girato in prima persona, il fatto che avvicini una vicenda prima di tutto umana e che racconti un problema fortemente sentito in una maniera non ideologica e in maniera noi siamo inevitabilmente attratti da queste due figure che sviluppano la loro vita in maniera diversa, pur essendo molto legati al loro territorio. Di fatto Aitor, il regista, ha un bel cercare di spiegare quello che succede nei paesi baschi, dove lui vive praticamente da quando ha 18 anni a Madrid, perché gli amici di Madrid non capiscono che cosa sta di fatto succedendo nei paesi baschi, e lui, nel momento in cui difende l'amico, viene in qualche modo considerato parte parte dell'ETA automaticamente. Lui dice: io non ho mai fatto parte dell'ETA, io capisco le ragioni, sento la vicinanza con la terra, ma di fatto vorrei che voi capiste come sto vivendo io in Spagna da basco. Mm-hmm. Ecco, in questo senso c'è un capirsi a vicenda rispetto alle ragioni ognuno dell'altro? Ma l'attenzione che ha il regista è proprio quella di arrivare fino a un certo punto. Okay. A un certo punto lui accetta, non vuole sapere più di tanto, preferisce anche appunto per non rischiare di fare pasticci nel raccontare, però il suo amico è sempre presente, si confrontano, è l'amico che spiega che cosa succede nei Paesi Baschi. Per questo è interessante anche per chi non ha confidenza con l'argomento trattato, si chiarisce anche attraverso le parole di questo amico di Asier, spiega perfettamente quali sono gli obiettivi di fatto, quello di il perché, e perché difende una cultura in qualche modo, prima di tutto. Senti, come avete incontrato questo lavoro? Ah, questo lavoro era passato a San Sebastiano, aveva ricevuto un premio, ci siamo confrontati con la produzione, ci siamo trovati d'accordo nello scegliere di uscire con questo titolo, che a tutti gli effetti non è proprio esattamente un titolo facile, è un documentario raccontato in prima persona, è un film che probabilmente in Germania o in Francia o nei paesi civili passerebbe tranquillamente in 30 o 40 cinema. Noi facciamo fatica a farlo uscire perché questo tipo di lavori, un lavoro di questo tipo non è capito ancora in Italia. Mm-hmm. Ci sono dei tentativi, non siamo gli unici a proporre dei film di questo tipo, naturalmente siamo realisti, sappiamo che conosciamo le difficoltà della distribuzione, e mi ricordo che l'ultima volta ci siamo sentiti al telefono ho fatto ripartire la macchinetta, e quindi mi fermo adesso. Sì. Senti, no, però te lo chiedo io, che forma di uscita avete pensato per questo documentario? Ma quello che cerchiamo di fare è dare tempo ai film, a tutti gli effetti. Un film come Il nemico, un breviario partigiano, che era stato anche prodotto da noi, o La canzone perduta, il film del regista curdo, sono usciti uno la primavera dell'anno scorso, uno la primavera di quest'anno. Ora Il nemico ha avuto una delle ultime, probabilmente l'ultima proiezione a luglio di quest'anno. La canzone perduta sarà presentato ancora prenotato alcuni cinema per la primavera dell'anno prossimo. Quello che cerchiamo di fare è quello di far vivere un film e segnalarlo perché abbia un argomento, un modo di affrontare il tema che non lo renda legato al momento presente, ma che permette una riflessione, un approccio cinematograficamente interessante, anche per dire appunto La canzone perduta rimane un film sulla vita di un curdo a Istanbul, ancora più sensato adesso di quando è stato prodotto. In realtà io ho sentito recentemente il regista curdo Erol Mintas, gli ho chiesto dammi dei riferimenti, fammi capire che cosa sta succedendo lì, e lui è stato molto laconico, mi ha risposto it's a mess. Lui stesso non riesce a capire, dice un casino, lui stesso non capisce cosa sta succedendo adesso in Turchia. Però il suo film rimane una riflessione forte, valida ancora, sì, nonostante sia uscito da qualche mese e la produzione sia dello scorso anno. Ci lasci i riferimenti, i vostri luoghi web per saperne di più su Asier e io? Sì, il sito resta www.labottanta.it con la barra distribuzione, per arrivare direttamente sulla parte di distribuzione. Noi facciamo anche programmazione a Bergamo e abbiamo anche una piccola produzione piccole produzioni crescono. Benissimo. Allora Alberto, a questo punto alla prossima. Benissimo, abbiamo una bella stagione davanti e spero di sentirti presto. Ci saranno novità. Un abbraccio e a presto Alberto. Ciao. Alberto Valtellina di Lab 80 sulla distribuzione del documentario Asier e io, in uscita in sala oggi giovedì 8 settembre. Con Alessandra Ronadio, regista del film Orecchie, presentato a Biennale College, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, ho saputo di proiezioni strapiene, con l'aggiunta di una nuova proiezione per le richieste che sono arrivate. Sì, siamo sorpresi e emozionati per un'accoglienza che non aspettavamo, ovviamente. Come prima, è un film molto piccolo, girato in 3 settimane in una sezione che si chiama Biennale College. Stiamo ricevendo molto più di quanto immaginavamo. Poi ti dirò anche una cosa interessante sul protagonista, insomma. Okay. Senti Alessandro, per chi ci ascolta, lo raccontiamo per sommi capi? Guarda, Orecchie è la storia di un uomo che si sveglia una mattina con un fischio alle orecchie, un biglietto sul frigo che lo informa che il suo amico Luigi è morto e ci sarà il funerale quella sera. Il problema è che lui quel giorno non si ricorda chi è questo benedetto Luigi, e inizia così una sorta di on the road a piedi con una serie di incontri che alla fine lo porteranno a cambiare qualcosa nella percezione di sé e di tutti gli altri. Senti, come è nato quest'idea, questo lavoro? Ma è nata dalla voglia di fare una commedia un po' più strana, mescolando insieme tante cose, tante declinazioni della comicità che mi piacevano, da Buster Keaton a Louis C.K. a Noah Baumbach, ai Simpson, ai Griffin, Daffy Duck. un mix strano che alla fine mi ha portato a scrivere un soggetto insieme a Stutilo Smeriglia, che è un autore di una di web series animate di culto, tra cui per esempio Preti, e poi mi sono ritrovato a scrivere la sceneggiatura appunto per la Biennale College, ed è nato un po' così, insomma, dalla voglia di sperimentare una comicità un po' diversa. Senti, la curiosità rispetto a Daniele Parisi è che a fine luglio è venuto qui in radio, nel nostro spazio del radioteatro, per il suo... Sì, infatti vi saluta, Veniamo adesso, poi dalla premiazione, è stata mezz'ora fa, Daniele ha vinto il premio come migliore attore esordiente del Festival di Venezia. Ah, che quindi bello. Siamo anche molto contenti di questa cosa. Cosa aveva fatto da voi? In V-Loop, il suo, ecco. Il suo spettacolo. Sì. Senti, Alessandro, ecco, a questo proposito... delle scelte stilistiche molto precise, un bianco e nero, e poi l'utilizzo di attori e attrici di provenienza sia teatrale che televisiva, che cinematografica, soprattutto teatrale però. Sì, beh, a cominciare da Daniele, che comunque ha il suo esordio assoluto al cinema e che è un autore e attore teatrale straordinario, che secondo me meritava la sua occasione. Orecchie è il suo primo film e inizia subito come protagonista. È un film anche molto difficile, perché comunque appunto è girato in poco tempo, in cui lui è il protagonista assoluto. È stato straordinario e l'ho voluto circondare e proteggere con attori invece di maggiore esperienza, tra cui Piera degli Esposti, Massimo Wertmüller, Rocco Papaleo, Ivan Franek, Milena Vukotic. C'erano tantissimi attori che hanno aderito a questo progetto, in cui, detto francamente, non avevamo una lira, però insomma, hanno assolutamente voluto partecipare, perché si divertiva il ruolo, si divertiva il film, insomma, e siamo qui, contenti. Senti, vista l'avventura veneziana, si muove già qualcosa per la distribuzione in sala? Beh, devo dire che fortunatamente sì, che insomma, possiamo dire tra noi che gente che prima non ci filava di pezza, adesso si chiama. Le piccole grandi contraddizioni di questo magico mondo del cinema, però siamo molto contenti e insomma, spero, penso che insomma riusciremo a portare questo piccolo film in sala, che era anche la cosa che volevamo e che insomma è anche il motivo per cui sono i festival certe volte. Certo. Allora Alessandro, a questo punto ci diamo appuntamento per l'uscita in sala per riparlarne. Va bene, non vedo l'ora. Allora, grazie per avermi invitato. Un abbraccio, un saluto anche a Daniele e a risentirci presto. A presto, grazie. Ciao. Alessandro Aronadio, regista del film Orecchie, presentato a Biennale College, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Eccoci con Andrea Ciria di Fil Rouge Media sulla distribuzione del film Il fiume ha sempre ragione di Silvio Soldini, in uscita in sala oggi giovedì 8 settembre. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' di questa storia, di cosa si parla, qual è il racconto? Il racconto è la riscoperta da parte di Silvio Soldini di un approccio poetico, sottile alle antiche professioni e ai mestieri, così come c'erano una volta, così come si ricordano dal passato, attraverso due figure contemporanee che fanno dell'anacronismo del loro approccio, la loro grande virtù e anche una dimensione creativa eccezionale. Sono due bibliofili tipografi, uno residente in Svizzera italiana, Josef Weiss, e l'altro Alberto Casiraghi in Lombardia. Sono amici fra loro che hanno appunto, in contrasto con il mondo moderno, un approccio ancora meccanico all'arte di creare i libri, di rilegarli manualmente e di trasmettere una cultura e un mestiere in un altro modo. Un mestiere nel quale ogni testo, ogni libro è un elemento unico. Sì, è assolutamente un pezzo unico da collezione, un'opera d'arte a sé, oltre al contenuto medesimo del libro, che è spesso di altissima dimensione creativa. Per esempio Casiraghi è stato un amico della prima ora, un sostenitore di Alda Merini, ha lavorato tantissimo con lei, per citare un nome fra i molti. Sì. Ma questi libri che crea Casiraghi con l'edizione Pulcino Elefante e che Josef Weiss in Svizzera con la sua casa editrice porta avanti con un'altra collana che si chiama Divan, sono dei pezzi da collezione proprio già per l'arte tipografica, la rilegatura, la carta, una cura al tempo stesso maniacale ma anche molto creativa del dettaglio. Sì, hanno l'ossessione della perfezione, hanno l'ossessione della bellezza e di un oggetto che deve essere unico. E sono collezionisti loro stessi? Sono anche indirettamente collezionisti loro stessi, in quanto degli amanti dei libri, della lettura, della poesia, anche di tante altre arti. Sono delle personalità molto creative legate alla musica, alla storia, appunto. Però in particolare è chiaro la convergenza fra libri come mestiere, arte tipografica, e la letteratura è più vicina, e sono anche dei collezionisti di libri. Weiss, per esempio, in un passaggio molto brillante del film racconta come spesso gli capitino dei libri malmessi che si sente in dovere di salvare proprio per mantenere un oggetto unico e anche un bel testo, magari difficile da trovare in nuove edizioni, ancora in vita. E non trovi che siano facilitati in questo dal fatto che vivano in luoghi che sono pienamente a dimensione d'uomo? Credo di sì, in parte. Forse però si sono creati questi luoghi a dimensione d'uomo con molta forza di volontà e molta capacità personale. Non sono un conoscitore nel dettaglio delle loro biografie, ma da alcuni sommi capi sul loro percorso ho intuito anche questo, che hanno a un certo punto sposato un approccio diverso alla professione e all'arte di creare i libri. È stata una scelta molto radicale, perché sono comunque due signori adesso nella piena maturità, ma che hanno attraversato, insomma, gli anni 60, 70, 80, quindi già un'era pienamente industriale e moderna, e la loro scelta molto radicale di concentrarsi su questo tipo di nicchia, di difenderla, di portarla avanti, è molto dovuta anche alla loro forza di volontà. Poi è chiaro che hanno scelto di abitare in luoghi un po' più decentrati, perché gli facilita di più nella vita. È un po' difficile avere un atelier editoriale nel centro di Roma o di Milano. Sì. Senti Andrea, rispetto a Silvio Soldini, cosa ne sai di questo progetto, come l'ha pensato, come l'ha realizzato? L'ha pensato in quanto Soldini stesso è una persona che ha una sensibilità poetica molto forte, ed è rimasto affascinato, avendoli conosciuti, da queste due personalità ha poi capito quale fosse il rapporto anche fra loro, perché si sono conosciuti a un certo punto della vita e del loro percorso, Casiraghi e Weiss, e si sono ovviamente ritrovati molto, diventati due colleghi, amici. Soldini è stato molto affascinato dalla loro storia, conoscendoli anche dalla dimensione umana e intellettuale di queste due persone, e ha deciso di provare a catturare la loro realtà, proprio nel senso più classico. Ha impostato il documentario nel senso più rispettoso e più filologico. Mm-hmm. Che oggi viviamo in un'epoca di documentari spesso anche molto costruiti sull'onda di format televisivi, spesso sono molto costruiti, molto impaginati, diciamo così, sin dall'inizio, o chiusi dentro delle linee guida molto stringenti che tolgono spesso una dimensione più poetica, appunto, o una restituzione molto fedele e sottile di una certa realtà o di certe figure. Cioè Soldini si è, in maniera molto diversa, avvicinato il loro atelier, decidendo di passare del tempo con loro e di riprendere quanto accadeva in diretta, così, passando chiaramente molte ore. Si è reso però conto rapidamente che, per quanto siano delle piccole realtà, entrambi gli atelier sono molto frequentati da tanti creativi, scrittori, collezionisti, amici dei due protagonisti, per cui anche in pochi giorni ha raccolto tantissimo materiale. Sì. Non è stato molto complicato per lui, così ci ha raccontato, trovare immediatamente una chiave attraverso anche queste molte persone che frequentano gli atelier di Massa Casiraghi e rendere l'atmosfera del loro lavoro, i loro procedimenti, il loro approccio. E lo si vede molto bene dal film. Sì, tra l'altro, sì, sì, posso dire, appunto, come nota tecnica che rende molto bene l'idea di quanto sia stata una cattura della realtà, anche una presa diretta sonora bellissima. Si sentono proprio tutti gli effetti degli ambienti molto bene: la carta, le macchine tipografiche, la penna d'oca che scrive, a un certo punto che Casiraghi fa sì, anche quella. È vero. Quindi, è molto, molto fedele alla loro realtà quotidiana. Senti Andrea, Fil Rouge Media è uno dei soggetti che si cura della distribuzione di questo lavoro, è un, sì, una realtà che non conoscevo, ci parli un attimo di voi? Sì, questo film esce attraverso una forma di cooperazione, che è, diciamo, una nuova forma, per ora sta procedendo bene, di collaborazione fra società. Riesce infatti con Fil Rouge Media e i Wonder Biography Collection, sì, sì, che è un'altra distribuzione guidata dall'amico Andrea Romeo. E, abbiamo trovato questa formula cooperativa per impegnarci insieme e sostenere di più dei film che hanno chiaramente bisogno di più sostegno e ancora più cura. Anche dal nostro lato diventa una cura editoriale, a maggior ragione quando sono dei film stranieri, c'è il doppiaggio, tutta una serie di adattamenti, ma anche quando si tratta di un film italiano, come questo, dove abbiamo fatto trailer, poster, tutta una serie di cose che insieme abbiamo capito, con un certo scambio creativo e l'unione delle risorse, facciamo meglio, poi siamo anche tutti amici e ci divertiamo. La mia realtà è nata circa 2 anni fa, è molto piccola, forse la più piccola sul mercato, che può essere paradossalmente un motivo d'orgoglio essere la più piccola di tutte, e è molto concentrata su film di qualità, come si usa dire, il film con un certo contenuto e appunto un profilo editoriale importante, per quanto magari produttivamente più piccoli dei titoli che invadono il mercato mainstream e anche quello più de sé, purtroppo non solo quello. La Fil Rouge vuole concentrarsi su film d'autore, film con un certo contenuto, e dentro queste premesse chiaramente anche molti documentari. Senti, che uscita è prevista per questo lavoro? Che forma avete scelto? Esce oggi, quindi è importante ricordarlo, esce oggi al cinema, esce a questo primo giro con 11 copie, sì, che non sono nemmeno male per questo tipo di documentario, infatti siamo contenti perché è presidiato bene tutto il territorio delle grandi città, che sono quelle più legate a questo tipo di cinema, e ci auguriamo che possa andare bene e produrre un buon risultato in queste grandi città, perché il meccanismo molto estremo della distribuzione penalizza immediatamente i film che non abbiano avuto nella prima uscita nei grandi centri un buon risultato. Poi diventa più difficile farli circolare nel territorio. Sì. Il nostro auspicio è chiaramente che vada bene. Senti, per saperne di più sul calendario, sulle città coinvolte, ci lasci i vostri riferimenti web per quanto riguarda il sito internet? Lascio uno tra molti, piuttosto semplice, basta andare su Facebook, alla pagina appunto facebook.com/filrougemedia, tutto in una parola, e mi potete trovare gli aggiornamenti sulle sale, i contenuti, molte altre cose. Poi c'è anche il sito della I Wonder Pictures e il suo profilo Facebook e Twitter, che è appunto partner con me di questa uscita, e anche lì trovate tutti i riferimenti. Cercate Fil Rouge o I Wonder, dalla rete c'è tutto. Benissimo. Andrea, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Andrea Cirla di Fil Rouge Media sulla distribuzione del film Il fiume ha sempre ragione, documentario di Silvio Soldini, in uscita in sala oggi giovedì 8 settembre. Con Marco Danieli, regista del film La ragazza del mondo, alla 13ª edizione delle giornate degli autori, proiezioni fino al 9 settembre. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buongiorno. Allora, ho visto un servizio in televisione, per chi ci ascolta, parliamo un po' di questa storia, e di cosa parla La ragazza del mondo. La ragazza del mondo è la storia di un amore, la storia di un amore tra Giulia, che è una ragazza testimone di Geova, che nel passaggio si trova nel passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta, e Libero, che è il peggior ragazzo che poteva incontrare, un piccolo spacciatore appena uscito di galera. Diciamo che sono due mondi lontanissimi, apparentemente inconciliabili, e invece scatta qualcosa tra loro, probabilmente sulla base di una insoddisfazione, diciamo, esistenziale, di una voglia di cambiamento. Insieme attuano una piccola, diciamo, rivoluzione, no? Nelle loro vite. Sì. Il film è una storia d'amore, ma è anche un romanzo di formazione, perché comunque, diciamo, si segue la vicenda della giovane protagonista, e diciamo, posso anticipare che come dire, l'amore è il catalizzatore di un cambiamento nella sua vita, ma non è poi, non sarà il punto, diciamo, la destinazione poi del film. Senti Marco, come viene fuori questo film, quest'idea? Viene fuori dal racconto di un'amica. Io e il coautore Antonio Manca abbiamo un'amica che a un certo punto ci ha rivelato che quando era adolescente ha avuto un vissuto analogo a quello che abbiamo raccontato nel film. Poi non l'abbiamo romanzato, ci siamo ispirati anche ad altre testimonianze che abbiamo raccolto, e quindi diciamo che è nata da una testimonianza reale. Senti, due realtà che vengono da mondi di chiusura, uno è un ex detenuto e l'altra in una dimensione piuttosto settaria, che è quella dei testimoni di Geova, un po' prigioniera della fede in qualche modo, è, insomma, un incontro tra due realtà che hanno vissuto, insomma, costretti in qualche modo. Sì, diciamo che noi abbiamo cercato di raccontare il mondo dei testimoni di Geova. Ovviamente questo non è un documentario, no? Certo. Diciamo che noi abbiamo, nell'economia di un lungometraggio di finzione, si raccontano alcune cose. Quelle su cui ci siamo concentrati sono cose molto umane. Noi non abbiamo fatto un film inchiesta, non abbiamo, certo, parlato delle solite cose, tra l'altro, che si dicono sui testimoni di Geova, che di solito sono le cose che agitano di più, per esempio, i giornali, no? Tipo, che ne so, le trasfusioni, quelle problematiche lì. Sì, noi l'abbiamo, sì, completamente, sì, messa da parte, siamo concentrati sulle, diciamo, sull'umanità, e con molto rispetto, perché in realtà, chiaramente, come dire, mettendo anche in evidenza degli aspetti controversi da un punto di vista di uno sguardo laico, perché inevitabilmente noi non è che siamo, come dire, per quanto siamo stati rispettosi il più possibile, poi ovviamente per proprio abbiamo un punto di vista sulle cose, no? Noi autori, intendo. Certo. Però abbiamo cercato di raccontare delle umanità tridimensionali, tutti i personaggi del film, non ci sono buoni o cattivi, anche la protagonista ha dei lati oscuri, anche tutti gli altri personaggi hanno sempre delle luci e delle ombre, quindi diciamo che questo è stato almeno l'intento del film, spero che venga diciamo riconosciuto da chi lo guarda, sia da testimoni di Geova sia dalle persone like, insomma, ecco. Senti, rispetto al lavoro sugli attori, cosa avete chiesto ai vostri protagonisti rispetto ai ruoli che hanno interpretato? Diciamo che i due attori, Michele Riondino e Sara Seraiocco, gli attori principali, perché poi ce ne sono parecchi altri, sì, bravissimi, tipo Pippo Del Bono, Stefania Lucia Mascino, Stefania Montorsi, Marco Leonardi, eccetera. Su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo cercato di lavorare anche qua su delle, come dire, su dei personaggi che fossero, vabbè, il registro è un registro naturalistico, diciamo, di recitazione, quindi okay, cercavamo di raggiungere un tono realistico. Dall'altro posso dire che lavoravamo anche lì su cercare una tridimensionalità, diciamo che i due personaggi, la caratteristica principale dei due personaggi è quella, diciamo, Libero appare all'inizio molto forte, personaggio un po' di borgata, no? Con il suo carisma, eccetera, e poi si rivelerà probabilmente il personaggio più fragile. Lei invece, che è una ragazza più apparentemente remissiva, più introversa, devota, nella, molto devota a livello religioso, eccetera, poi dopo tira fuori un carattere, anche, come dire, ha una spinta evolutiva forse più forte di quella del ragazzo, e quindi, come dire, spero che siano anche dei caratteri sorprendenti. Dopo le giornate degli autori, per la distribuzione in sala si è mosso già qualcosa? Sì, siamo arrivati stranamente, dico felicemente, alle giornate degli autori già con distributore, perché comunque è molto difficile, come sappiamo il tasto dolente spesso per molti film è poi, quando sei riuscito a farlo, e poi distribuirlo. Il film ha come distributore Bolero, che sta decidendo la data d'uscita, ma sarà, diciamo, nell'arco dei prossimi mesi, tipo nell'arco dei prossimi due mesi. E di sicuro siamo molto felici di essere qui ai giornali autori, perché chiaramente ci dà una certa visibilità stare in questa vetrina importante, dove siamo stati accolti anche ieri in maniera molto calorosa, e quindi del pubblico, e insomma abbiamo avuto una reazione emotiva molto calda, e quello è una cosa, è forse la cosa a cui tengo di più. Cioè, spero che questo film coinvolga emotivamente, si crei empatia nei confronti della protagonista, si vada oltre anche la questione religiosa, perché comunque spero che si mettano in moto delle cose personali, insomma, perché questa comunque alla fine è una storia universale, insomma, al di là delle specificità, le peculiarità del contesto da cui parte. Allora Marco, io ti abbraccio e ci diamo appuntamento a questo punto per l'uscita in sala. Ti ringrazio molto, ringrazio Radio Onda Rossa e a presto. A presto, ciao Marco. Ciao. Marco Danieli, regista del film La ragazza del mondo, presentato alla 13ª edizione delle giornate degli autori, alla Mostra del Cinema di Venezia, con proiezioni fino a domani, venerdì 9 settembre. Oh, parliamo ora di un documentario al quale abbiamo dedicato la foto di copertina, con una foto di scena che poi rimanda al libro di uno dei protagonisti di questo lavoro, che è Our War. Ne parliamo con i tre registi, cominciando con Benedetta Argentieri, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Ci sono. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Allora, tu sei giornalista, tutto parte un po' da te, da quanto ho capito, e ci racconti un po' di questo progetto? Sì, io ho cominciato ad occuparmi della questione Rojava e del conflitto ad agosto 2014, appena ISIS aveva invaso Sinjar, la montagna di Shengal, e durante uno dei miei viaggi a novembre del 2014 ho conosciuto la prima ondata di stranieri che si sono uniti al YPG. E da quel momento in poi ho cominciato a monitorare che cosa succedeva, chi andava, chi non andava, le ragioni, eccetera. Dopo 6-7 mesi abbiamo conosciuto Karim Franceschi, E da lì con Claudio Iampaglio e Bruno Seravallotti abbiamo cominciato a ragionare di fare qualcosa di un pochino più approfondito, anche perché l'attenzione dei media ci pareva che fosse tutta sui combattenti dall'altra parte, sugli stranieri che si univano ISIS, mentre invece appunto c'era questo fenomeno che stava assolutamente crescendo. Ma la cosa, diciamo così, più importante è che noi abbiamo cercato di occuparci di più sulle ragioni, sul perché delle persone volessero andare a combattere, lasciare la loro sicurezza e andare a combattere ISIS. E abbiamo appunto scelto tre persone molto diverse tra di loro, perché con motivazioni molto diverse, che sono Joshua Bell, un ex marine che appunto è stato uno dei primi ad arrivare a Rojava, Karim appunto, e poi Rafael Kardari, che è un ragazzo svedese di origine curde irachene, che anche lui è andato a combattere a Kobane. A questo punto facciamo una domanda a testa, e se c'è in linea Bruno Chiaravallotti chiediamo qualcosa anche a lui. Assolutamente, ve lo passo subito. Ok. Pronto? Ciao Bruno. Ciao. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ok, buongiorno a tutti. Senti, allora, rispetto a queste tre persone che avete individuato e sulle quali vi siete concentrate, come avete cominciato a lavorare? Allora, noi la prima persona che abbiamo incontrato, grazie a Benedetta, è stato Karim, che ci ha mostrato, Karim Franceschi, che ci ha mostrato tre ore di girato in mini DV, che lui ha girato autonomamente durante il suo primo viaggio a combattere, quindi durante anche tutto il periodo della battaglia di Kobane, e che è stato una prima, come dire, tesoro di questioni e di immagini su cui riflettere. Da lì abbiamo poi cominciato a lavorare con Karim. A dicembre siamo stati negli Stati Uniti a incontrare Joshua, e a gennaio abbiamo incontrato Rafael Kardari a Stoccolma. E oltre alle interviste che hanno condotto Claudio e Benedetta, abbiamo cercato di individuare quali potevano essere degli elementi iconici della loro vita quotidiana rispetto a come li abbiamo conosciuti. Per esempio, con Rafael e Karim siamo riusciti più a decidere e strutturare con loro quello che avremmo fatto insieme. Joshua l'abbiamo inseguito durante un viaggio negli Stati Uniti, che ci ha portato da una partita di soft air al desiderio di Joshua di andare a mostrare la bandiera dello YPG di fronte alla Casa Bianca, fino a seguirlo in televisione alla Fox. E a questo punto chiedo anche l'intervento di Claudio. Ora te lo passo, arriva subito. Sì. Ciao, ciao, grazie. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti e a tutte. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Claudio, stavo pensando, per esempio, questa sera me ne vado a teatro, al Teatro India, e c'è uno spettacolo, Prima della bomba, che parla invece dei foreign fighters che si convertono in Occidente e vanno a combattere per l'ISIS in Siria. E questa è la storia opposta, questa vostra. E allora, siccome è una cosa che ho chiesto anche all'autore e al regista di quello spettacolo teatrale, lo chiedo anche a te rispetto ai protagonisti della tua storia, cosa si agita nella mente di queste persone, e quali sono le tensioni ideali e le passioni che le spingono a questa scelta? Allora, sicuramente per i nostri tre personaggi sono leggermente diverse, ma accomunate poi dall'incontro. Per Karim, già scelto diciamo con una scelta politica iniziale, una scelta di sinistra, una scelta di militanza, sì, una scelta di portare gli aiuti con la caravana Rojava Calling, eccetera eccetera, lo sappiamo già, diciamo, meglio, specialmente sulle vostre frequenze. Gli altri due poi però alla fine fanno tutti la stessa scelta, cioè una scelta di sensibilità non soltanto, come dire, politica e umana, ma proprio di riconoscimento nei curdi del Rojava, nella dinamica di relazione tra commilitoni, nel campo della disciplina, nel campo delle regole, nel campo del costruire insieme qualcosa che sia egualitario, dove la differenza di genere è importantissima, dove la comunitarismo è importante, dove c'è un'idea di popolo che spinge e chiede la fine del, diciamo, finalmente un territorio liberato in quest'area super martoriata di tutto il Medio Oriente, o lo sappiamo, dai fondamentalismi anche peggiori, la costruzione di uno Stato popolare sta Stato, forse nemmeno uno Stato, di una comunità, di un federalismo democratico, come dice Rojava, comunitario, aperto, femminista, dove non c'è differenza di etnia, e questo ha affascinato tutti. Questa è la cosa con cui loro sono tornati, con un bagaglio di esperienza, di umanità enorme, portandosi purtroppo a casa, perché hanno combattuto e tutte e tre hanno davvero combattuto, portandosi a casa un bagaglio anche di incubi, di preoccupazioni, di problemi di sicurezza personale anche, ovviamente morme, cioè si sono caricati sulle spalle qualcosa di molto complesso e molto pesante per dei ragazzi così giovani, ma allo stesso tempo continuano a militare, perché in Rojava hanno trovato tutti e tre, anche l'americano che ci dice che lui non è assolutamente di sinistra, assolutamente no, però hanno trovato un motivo vero, profondo nel comunitarismo, del federalismo democratico del Rojava, per dire che quelle persone non sono solo da difendere o da aiutare, sono da portare come esempio, come modello. Claudio, sulla questione curda ci sono stati per i quali i curdi rientrano nel campo del terrorismo internazionale, ci sono stati per i quali i curdi vengono usati strumentalmente di volta in volta a seconda dei propri benefici. Io credo che a livello dei conflitti globali l'esperienza curda sia quanto di migliore, almeno per quello che si può che posso sapere, non essendo materialmente lì, ma da quello che riesco a sapere, per quanto riesco a informarmi, quanto di migliore si riesca a esprimere in termini di poi di una realtà di conflitto, nonostante poi l'informazione di questo non si occupi molto attentamente. Non credi che sia un esempio piuttosto pregevole quello che si sta sviluppando nella regione? Sì, il nostro infatti è, benché sia un film dove noi teniamo a prendere una distanza, no, da osservatori e non una partecipazione diretta, certo, è un film schierato, nel senso che nel film viene detto molto chiaramente una cosa semplice e ovvia, che i curdi del Rojava, che hanno vissuto prima sotto Assad, all'inizio discriminati perché ci sono state tutta una serie di campagne di arabizzazione forzata del territorio eccetera, si sono ripresi il loro territorio, l'hanno condiviso con gli arabi della regione, tanto che addirittura a livello militare in questo momento lo YPG come dire, è diventato con le forze democratiche siriane un esercito popolare, metà e metà, metà arabo e metà curdo, e combattono assolutamente perfettamente insieme, quindi c'è anche una dimostrazione militare di che cosa significa. A livello comunitario fanno elezioni comunitarie e popolari in cui i diritti delle minoranze sono moltiplicati e ponderati, perché ovviamente le minoranze sono un punto delicatissimo in ogni 30 chilometri di quel territorio, e sono attaccati contemporaneamente non solo da ISIS, che oggi è sicuramente il più, diciamo, noto alle stampe, ma sono attaccati violentissimamente da Turchia, che nelle settimane scorse è entrata con i carri armati in Siria per la prima volta in maniera clamorosa, incendiando, se si può incendiare ulteriormente quei luoghi, sono attaccati sostanzialmente da tutti, e il sostegno internazionale è scarsissimo, perché a parte i bombardamenti spesso prevalentemente Stati Uniti e un po' dei francesi, il sostegno si ferma quando poi la Turchia gioca sullo scacchiere internazionale le sue carte. Non sono per nulla amati dagli stati arabi del Golfo, del Medio Oriente, quindi sono fondamentalmente soli. Quello che può aiutare Rojava è un sostegno popolare dal basso, informato, perché la parola Rojava è una parola sconosciuta, definisce la regione appunto dei curdi del nord della Siria, diversi, più liberi, più autonomi. La regione autonoma del Kurdistan, che in Iraq ha un governatorato governato, diciamo, un po' da una enorme democrazia cristiana, governata da una famiglia, da un clan, dove si vive sicuramente bene, dove c'è anche molti aspetti positivi democratici, ma onestamente molto simile ai paesi occidentali, una brutta copia dei paesi occidentali peggiori. E quindi noi quello che possiamo fare tutti insieme è informarci, dal mio punto di vista, insomma, come giornalista e documentarista, informarci e capire che in Rojava si gioca una partita che è nostra, che è molto più delicata, è molto più importante, e non solo non deve finire, ma bisogna portarla come modello. Il confederalismo democratico è un modello che noi abbiamo praticato in altro modo, nei forum sociali, nelle lotte antiliberiste e in quello che, diciamo, dalla fine degli anni 90 all'inizio del 2000 sembrava un meraviglioso movimento che poteva scardinare alcune delle orrende gerarchie, delle orrende sfruttamenti di classe che esistono nella nostra società. Mi ripassi Benedetta, Claudio? Ripasso molto volentieri Benedetta. Grazie. Che qui di fianco a me. Bene. Eccomi qua. Eccoci Benedetta. Rispetto anche alle parole di Claudio, volevo chiederti com'è dal punto di vista sia militare che della popolazione la situazione ora in Rojava. La situazione è evidentemente molto tesa. Se avete seguito gli sviluppi con l'arrivo a Jarablus dalla Turchia, sinceramente si è complicato la situazione moltissimo, anche perché comunque Rojava in questo momento è sotto un embargo totale da tutti i lati, dalla Turchia, dall'alto iracheno, dove confina, diciamo così, con il Kurdistan iracheno ovviamente dalla parte di ISIS e quindi anche verso a ovest dell'Eufrate. È una situazione molto complicata che ovviamente l'azione civile. Questo embargo vuol dire meno cibo, complicazioni e tutta una serie di problematiche ovviamente molto facili da capire. Da un punto di vista militare quello che sta succedendo è che comincia a esserci molta confusione, soprattutto che la posizione degli americani comincia a non essere non più così chiara e non più così lineare. Ieri il segretario alla difesa americana Ashton Carter ha detto che gli americani vorrebbero sostenere sia i turchi sia i curdi. Questa cosa ovviamente non sarà possibile, perché in primis la Turchia non vuole questo tipo di sostegno, perché quello che sembra è che la vera intenzione della Turchia entrando per la prima volta con i carri armati in Siria era quella non di combattere ISIS, perché infatti loro hanno preso Jarablus senza sparare un colpo, ma quella di almeno contenere e poi in un secondo momento spazzare via il sogno di Rojava. A questo punto io chiuderei con Bruno, se me lo passi nuovamente. Assolutamente, ecco Bruno. Eccomi. Eccoci Bruno. Allora, vi volevo chiederti in chiusura quali sono le modalità distributive che avete scelto per quest'uscita? Guarda, noi non abbiamo ancora un distributore, quindi aspettiamo dopo Venezia a capire che cosa succede. È entrata in coproduzione la RAI e discutiamo con loro e capiremo. Abbiamo iscritto ad altri festival e capiremo adesso dopo Venezia che cosa succederà. Ovviamente una volta risolte prossime uscite eventuali obblighi televisivi, avremo comunque piacere a portarlo in giro in qualunque forma in Italia e anche all'estero. A questo punto allora ci diamo, io perché avevo segnato come uscita in sala la data di domani venerdì 9 settembre, ma a questo punto invece ci dobbiamo aggiornare e ci sentiremo quando abbiamo una data precisa. Domani abbiamo la proiezione in sala grande qui a Venezia con Karim, Joshua e Rafael, che si incontreranno sul tappeto rosso di Venezia da Rojava. Ok, e allora poi per l'uscita in sala ci avremo modo di risentirci e di fare una nuova chiacchierata telefonica. Molto volentieri, certo. Ok, allora resta un attimo in linea. Bene, questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Abbiamo ancora alcuni collegamenti. Per saperne di più sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione basta consultare il sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Antonio Medici per parlare con lui del premio Zavattini, del bando in corso e della presentazione che ci sarà all'Apollo 11 qui a Roma il prossimo 13 settembre. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per l'invito. Allora, questo premio Zavattini ce ne parli un po'? Sì. È un'iniziativa promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, sostenuta dalla SIAE e dalla Regione Lazio, con la collaborazione della Cineteca Sarda e dell'Archivio del Cinema del Reale. Nasce dall'idea che i materiali conservati da archivi come appunto la nostra fondazione debbano essere messi a disposizione di tutti, debbano essere liberamente attingibili e circolare il più possibile. Quindi di base c'è l'idea di provare a rendere attraverso le licenze Creative Commons accessibili questi materiali, che vengono messi a disposizione nell'ambito del premio a tutti coloro i quali vorranno partecipare. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni. Mm-hmm. Sul nostro canale YouTube si possono vedere tutti i materiali dell'archivio e anche dei partner. E farsi venire l'idea di un progetto per un film documentario di cortometraggio. Questi progetti poi vengono vagliati da una commissione di esperti e i 6 migliori progetti ammessi a un seminario di sviluppo, totalmente gratuito ovviamente. Così come è totalmente gratuita anche tutta la fase di post-produzione, e c'è anche un piccolo budget per la produzione, per cui se il progetto prevede riprese apposite per il progetto di film, questo piccolo budget può coprirne i costi. Tre di questi progetti parteciperanno quindi alla fase finale di post-produzione e riceveranno anche un premio di 2000 euro ciascuno. Tutto questo nello spirito appunto di incentivare da un lato la conoscenza del cinema documentario, soprattutto nelle giovani generazioni, e dall'altro il riuso creativo dei materiali d'archivio. Vorremmo cioè che i progetti che ci presenteranno fossero anche progetti creativi, dove il materiale d'archivio viene usato non solo per essere appoggiato su una testimonianza o sulla ricostruzione di una storia, ma anche in forme totalmente libere, creative, che arrivino fino alla videoarte. Insomma, questa è un'idea che secondo noi sta nello spirito di Cesare Zavattini, cui è intitolato il premio, no? Cioè di un cinema libero da schemi, dai generi, dall'incasellamento in percorsi industriali, ma soprattutto un cinema invece capace di entrare in rapporto con la realtà, ma anche capace di esprimere la soggettività degli autori. Senti, per il bando c'è tempo fino alla fine del mese, se non sbaglio? Sì, il bando scade il 30 settembre. Sul sito dedicato al premio, che è www.premiozavattini.it, si può vedere il bando, il regolamento, e si possono scaricare i modelli, che poi è il modello della domanda e il modello del progetto, su cui bisogna scrivere appunto le proprie intenzioni progettuali per essere poi spedite alla fondazione. Ci parli anche della presentazione all'Apollo 11 il 13 settembre? Sì, il bando è già attivo, però noi vorremmo promuoverlo il più possibile, quindi la prima data di promozione del bando stesso è appunto il 13 settembre presso l'Apollo 11, che è un luogo conosciuto a Roma da chi frequenta il cinema documentario, avendo promosso negli anni molto il cinema documentario, soprattutto il cinema documentario di creazione. E la formula che abbiamo pensato di utilizzare in queste presentazioni è quella di chiedere a un autore importante del nostro cinema di scegliere un film documentario in cui vi è un uso interessante del materiale d'archivio e presentarlo. In questo caso il regista che abbiamo contattato e che ha accettato di presentare è Daniele Vicari, l'autore di Diaz, della Nave Dolce, di altri film, e lui ha scelto il film Quando eravamo re di Léon Gast, che almeno per la mia generazione è stato un film straordinario. Racconta soprattutto dell'incontro di Mohammed Ali a Kinshasa contro Foreman, utilizzando in maniera straordinaria il materiale d'archivio. Lui ha scelto di presentare questo film anche per far conoscere le nuove generazioni come l'archivio non deve essere identificato con, per esempio, l'uso televisivo, che purtroppo spesso di tipo puramente illustrativo. Penso ai tanti documentari storici che passano in televisione. ma che appunto può dare la possibilità di usi molto diversi, creativi, interessanti, originali, che nulla tolgono appunto alla possibilità di un documentario di essere un prodotto artistico, creativo, esattamente come un film di finzione. Senti Antonio, in chiusura ci lasci i riferimenti web per le informazioni? Sì, il sito del premio è appunto www.premiozalattini.it. Collegato al sito del premio vi è la pagina Facebook dove noi mettiamo appunto anche delle suggestioni rispetto ai documenti audiovisivi che si trovano sul canale YouTube. La prima iniziativa, come dicevamo, è martedì prossimo, 13 settembre, alle ore 20, ci sarà un aperitivo di benvenuto con la presentazione sia del premio sia del film Quando eravamo re di Leon Gast da parte del regista Daniele Vicari. Io spero, mi auguro che siano tanti i giovani a partecipare a questo premio, è un'occasione di poter realizzare insomma un prodotto audiovisivo e anche un'occasione per avvicinarsi in maniera creativa all'uso del materiale d'archivio. Benissimo. Antonio, allora io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi. Saluti. Ciao ciao. Antonio Medici sul bando del premio Zavattini e della presentazione all'Apollo 11 il prossimo 13 settembre. Damiano Ricci di BIM Distribuzione per parlare del film Un padre e una figlia di Christian Mungiu, che è uscito in sala lo scorso giovedì 30 agosto. E Damiano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, salve a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e dei Visionari. Allora, già da una settimana in sala, e intanto ti chiedo come sono i risultati per questa pellicola. Guarda, i risultati sono buoni e molto incoraggianti. Noi abbiamo, dal giorno dell'uscita in sala, abbiamo realizzato 120.000 euro di box office e abbiamo, diciamo, ci siamo ben imposti rispetto a una strategia di distribuzione precisa, molto oculata rispetto a dei nostri competitor che sono usciti in questo stesso periodo, e quindi insomma siamo soddisfatti dei risultati e soddisfatti di tutto quello che abbiamo fatto sul film conseguentemente. Allora, un regista che è apprezzato anche in Europa e anche in Italia, perché due dei suoi lavori sono arrivati qui da noi, e che il che non è cosa facile, considerato che dal paese di provenienza insomma poco è il cinema che arriva nelle nostre sale. Diciamo un po' di Christian Mungiu, la BIM come si è occupata, quando lo ha scoperto e che percorso ha seguito con il suo cinema? Ma guarda, allora, io lavoro alla BIM da 4 anni e sono arrivato esattamente, credo, il giorno successivo dell'uscita del film Oltre le colline, sì, che è il primo film che è stato distribuito dalla BIM di Christian Mungiu, ovviamente, e anche il precedente film, quindi il film precedente all'uscita di Un padre e una figlia. Quindi non so raccontare la storia, diciamo, di come la BIM ha scoperto Christian Mungiu. Quello che posso ipotizzare è che Christian Mungiu è stato conosciuto in Italia grazie ovviamente alla vittoria della Palma d'Oro nel Festival di Cannes con il suo primo, non con il suo primo film, perché lui ha cominciato a fare film nel 1998 e ha fatto diversi cortometraggi, ed era già il suo terzo film quando è andato a Cannes con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Sì, sì. Questo film, che al tempo fu distribuito dalla Lucky Red, lo impose un po' e lo propose al pubblico italiano, fece un ottimo incasso in sala, avete un ottimo gradimento da parte del pubblico, e affermò questo autore internazionalmente, non ultimo anche in Italia. Mm-hmm. Conseguentemente i film vengono valutati di volta in volta nei festival e quindi conseguentemente nei mercati, per cui se un film di un autore ben importante e che va assolutamente valorizzato, come la BIM fa da sempre, da più di 30 anni insomma, fa un film che noi riteniamo possa trovare, intercettare un pubblico e possa essere apprezzato dal pubblico italiano, a quel punto noi con convinzione acquistiamo il film, lo proponiamo al pubblico e cerchiamo di valorizzarlo in ogni modo. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la storia del film, la trama, per sommi capi, insomma, qualche sì, elemento. Certo. Assolutamente. Beh, allora il film è un film che parla della storia di un medico che si chiama Romeo e che vive in una piccola città di montagna della Transilvania. Il protagonista di questo film ha cresciuto la figlia con l'idea che poi nel momento in cui avrebbe avuto la maggiore età avrebbe dovuto lasciare la Romania per andare a studiare e vivere all'estero, e nel momento in cui il progetto di questo padre sta per giungere a compimento, quindi nel momento in cui la figlia deve superare l'ultima prova dell'esame di maturità, succede qualcosa che cambierà il destino di questo padre e di questa figlia e che quindi, come diciamo allegoricamente possiamo dire, rimette in discussione anche molte delle certezze che il padre aveva maturato e con il quale, diciamo, con le quali aveva educato la propria figlia. Quindi è un film che parla di una storia umana molto forte e molto profonda, ma allo stesso tempo dietro questa storia umana in filigrana si legge anche la storia di un paese ed è ancor di più una storia universale, una storia di come dire le proprie idee si infrangono contro una realtà, in questo caso la realtà è la realtà di una Romania post Ceaușescu, una società che dal punto di vista geopolitico ed anche dal punto di vista culturale ha un momento di forte trasformazione, allo stesso tempo fa fatica a uscire fuori da quelli che sono i vecchi retaggi del passato, diciamo così, post comunisti, post sovietici, e che quindi è in una fase di mezzo. Mungiu riesce a raccontare molto bene questo e riesce a raccontare anche molto bene il dramma umano di questo genitore. In questo senso il film ci ha molto colpito, ci ha toccato e quando l'abbiamo visto siamo rimasti commossi e abbiamo deciso assolutamente di portarlo e proporlo al nostro pubblico perché pensavamo che potesse intercettare sicuramente il gradimento anche di un pubblico italiano. Oh, Damiano, due mi sembrano gli elementi validi di questo lavoro. Da un lato, come dicevi tu, il ritratto di un paese in cui comunque è forte e sempre presente il clientelismo e la corruzione. Dall'altro è un ritratto piuttosto disperato della generazione di mezzo, quella dei genitori della ragazza, che hanno conosciuto il periodo Ceaușescu e il periodo successivo rispetto alla figlia che invece è nata nel dopo e non hanno lasciato il paese quando potevano perché per riuscire a cambiarlo dal di dentro, ma ne sono usciti ridimensionati e sconfitti. Sicuramente, sì, questi sono i due aspetti tematicamente forti del film e qui si vede proprio, si capisce l'intelligenza anche come dire architettonica, se mi permetti un termine un po' fuori dal nostro linguaggio, perché Mungiu è anche un grande architetto di storie, oltre che un bravissimo regista che le mette in scena alla perfezione. Architetto perché sceglie appunto in questo confronto generazionale con una figlia nata appunto nell'era post-Ceaușescu e un padre e sceglie di realizzare il film su questo confronto, riesce veramente a mettere a luce tanto della Romania di allora e della Romania di adesso, i sogni e le aspirazioni infranti e anche i sogni e le disillusioni delle giovani generazioni. In questo senso è un film generazionale importante che poi parla sicuramente non solo alla Romania ma a tutti quelli che diciamo a tutto quel confronto generazionale che esiste nelle transizioni di ogni paese, anche se non emerge da una dittatura così come quella che c'è stata in Romania con Ceaușescu. Bene, allora Damiano, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Damiano Ricci di Bin Distribuzione per parlare del film Un padre e una figlia di Christian Mungiu, uscito in sala il 30 agosto scorso. E ritroviamo Gianluca Del Gobbo per parlare con lui della terza edizione del Live Cinema Festival al Macro qui a Roma da oggi fino all'11 settembre. Gianluca, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati anche a voi. Allora, lo seguiamo dall'inizio questo festival, raccontiamolo un po' per chi non lo conoscesse. Allora sì, cominciamo oggi, la parte di Live Cinema è come anche gli altri anni serale, due spettacoli al giorno per 4 giorni, iniziamo alle 10 il primo spettacolo e alle 11 il secondo. Per Live Cinema sono, diciamo, sono performance audio-video, dove sia la parte audio che la parte video viene realizzato dal vivo, e in particolare quest'anno abbiamo voluto un po' investigare un po' sull'arte digitale, non solo come una disciplina in cui si usano dei nuovi strumenti, ma grazie a questi nuovi strumenti siamo andati un po' a ricercare quelle che sono le metodologie del processo creativo legate all'arte digitale, quindi non solamente arte digitale perché si utilizzano strumenti legati alle nuove tecnologie, ma proprio come un cambiamento nell'approccio al processo creativo. E in questo senso abbiamo ospiteremo per esempio due performance che verranno in cui la parte video verrà realizzata con dei proiettori 16 mm, quindi con la vecchia pellicola, e diciamo, nonostante appunto si utilizza una tecnologia del secolo scorso, in realtà poi il pubblico si accorgerà che un secolo fa non veniva utilizzato in questo modo, quindi nonostante lo strumento è lo stesso, poi il risultato invece è molto più simile a quello che poi viene comunque realizzato con computer e strumenti invece più contemporanei. Gianluca, da quali esigenze è nato questo festival e poi che sentieri sta percorrendo, che vi ha preso? Allora, diciamo, è nato con all'interno dell'Estate Romana, di cui continua a far parte, ma allo stesso tempo fa parte anche di un progetto che coinvolge altri 13 partner europei all'interno di un progetto europeo del nuovo programma Cultura Creative Europe. Quindi diciamo che il progetto nato 3 anni fa, diciamo la prima volta che ci siamo sentiti era appunto di questo periodo del 2014, adesso diciamo inizia a prendere una sua forma indipendenza e diciamo inizia a correre un po' con le sue gambe. Per quanto riguarda le proposte, quanti sono più o meno i lavori ospitati in questa edizione? Allora, noi faremo appunto, come dicevo, 2 spettacoli al giorno per 4 giorni, e quindi questi sono gli artisti principali da 12 nazioni. E a fianco a questa parte centrale del festival abbiamo affiancato degli aperitivi che verranno fatti nella bella terrazza del Macro, dalle 19 alle 22 prima dell'inizio delle performance, e oltre e quindi con 4 crew romane attive nel campo della musica elettronica. In particolare stasera ci sarà Female Cat, domani sera Butter e poi Amen Crew per chiudere poi alla domenica. Quindi ci saranno queste quattro serate, e inoltre, per far capire anche meglio di che cosa stiamo parlando, avendo a disposizione l'auditorium del Macro di Via Nizza, che è molto bello, spesso chiuso, che è quella specie di astronave che sta lì vicino alla biglietteria rossa, sì. Molto, molto bella, facciamo degli screenings di artisti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni e ha dei lavori fatti appositamente per l'Ice Cinema Festival, come quello fatto dagli studenti del Quasar, e una selezione di altri artisti con una partnership del Five Festival di San Paolo del Brasile e il Toolkit Festival italiano invece. Quindi in questa sezione ci sono oltre 25 artisti che verranno presentati, e invece di far vedere esclusivamente le loro opere vedremo anche un po' di backstage, di interviste che magari possono aiutare anche il pubblico che poi viene per vedere le performance dal vivo anche a capire meglio il processo creativo legato a questa disciplina di live cinema. Senti Gianluca, il festival si è dotato di un archivio fruibile dei lavori che ha ospitato fino a questo momento? Allora, in realtà noi puntiamo molto nelle nostre attività, non solamente con live cinema ma anche con live performers meeting, all'aspetto live. Quindi anche in questi screenings cerchiamo di non proporre l'opera creativa come viene vista dal vivo, ma cercare di magari correlarla con un backstage e magari anche una parte un po' più, diciamo, in un certo senso didattica. Quindi in realtà un archivio no, ma queste performance dallo scorso anno è possibile vederle in streaming, e quindi indirettamente un archivio si crea. Chiaramente sono video che per farsi un'idea vanno bene, non è la riproduzione ottimale, diciamo, per fruirle da casa, ma noi cerchiamo sempre di invitare le persone poi a vederle dal vivo, perché poi è un po' la loro peculiarità, diciamo, che viste poi in da un computer non si colgono magari i particolari appunto specifici dei live. Ho capito. Per saperne di più, un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? Sì, livecinemafestival.com per quanto riguarda il sito, e Live Cinema Festival su Facebook. Questi, diciamo, sono i due riferimenti principali. Comunque da livecinemafestival.com è possibile anche poi avere i link ai vari profili social. Benissimo. Altre informazioni importanti: l'evento è gratuito. Non secondario, insomma. Non secondario, quindi c'è la possibilità di venire a vedere un festival, anche una location che di solito invece è a pagamento. Sì. Diciamo, invitiamo tutti poi a essere presenti in questi giorni, perché, diciamo, il nostro aspetto live ha il suo valore, quindi poter venire anche gratuitamente magari può essere un incentivo in più. Allora, ricordiamolo, terza edizione del Live Cinema Festival al Macro qui a Roma dall'8 all'11 settembre. Gianluca, ci ricordi la fascia oraria? Sì, Macro via Nizza, quindi non Mattatoio, ma Macro, sì, la sede centrale, dalle 7 alle 10 un aperitivo in terrazza, e dalle 10 a mezzanotte le performance audio-video, affiancato in parallelo sempre dalle 7 a mezzanotte nell'auditorium ci sono degli screenings che andranno a rotazione, e quindi diciamo che l'orario generale dalle 19 a mezzanotte. Benissimo, un abbraccio e a sentirci presto. Grazie, grazie a voi, un abbraccio anche a voi, a presto. Ciao Gianluca. Ciao. Gianluca Del Gobbo per questa terza edizione del Live Cinema Festival, e con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle ore 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ascolta alla diretta. Per le informazioni sulla scaletta della trasmissione e su Visionari in generale, le informazioni le trovate sia sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e per l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.